è difficile trovare delle riflessioni in merito al valore della notte. Per lo più le riflessioni dei figli di Dio sono riferite a ciò che dobbiamo o non dobbiamo fare di giorno. Eppure la notte costituisce, per un essere umano, quasi la metà della sua esistenza. Impossibile quindi ignorare un periodo così lungo e, come vedremo, così importante. Proprio perché la notte possiede un valore di grande interesse, la parola di Dio si riferisce spesso ad essa, e narrando l'atteggiamento che gli uomini di Dio hanno avuto nei suoi confronti. Per prima cosa notiamo nella scrittura che il periodo notturno è sotto la sovranità di Dio, ed è stato stabilito da Lui. Tu hai il giorno, tu hai anche la notte, tu hai stabilito la luce e il sole. Salmo 74:16. Sotto questo aspetto non dobbiamo dare a ciò che facciamo di notte meno importanza di ciò che facciamo di giorno, perché il periodo notturno è stato stabilito da Dio affinché possiamo onorarlo come durante il giorno. Se viviamo da cristiani di giorno, dobbiamo esserlo anche di notte. Anzi, forse la notte rivela più di tante altre cose la genuinità della nostra fede. Diciamo subito che la notte è stata stabilita da Dio perché l'uomo possa dormire, risposare e ritrovare nuove energie. Il salmista in proposito dà una bella testimonianza. Io mi sono coricato e ho dormito, poi mi sono risvegliato, perché l'Eterno mi sostiene. Salmo 3:5. Se il salmista avesse detto che l'Eterno lo aveva sostenuto di giorno, con tutto ciò che comporta la vita, era molto più comprensibile, ma affermare che aveva dormito e si era risvegliato perché l'Eterno lo aveva sostenuto sembra fanatismo religioso. Eppure, anche il dormire, che a prima vista sembra uno dei fattori biologici più normali, è una grazia che proviene dall'aiuto di Dio. Aiuto di Dio nel dormire, noi possiamo comprendere che Dio ci aiuti a superare una certa difficoltà giornaliera, perché ci sentiamo incapaci di superarle, ma dove Dio ci aiuta quando si tratta solo di abbandonarci ad una necessità fisiologica come il sonno. Ci poniamo questa domanda perché noi abbiamo un'idea sbagliata dell'aiuto di Dio. Noi pensiamo che l'aiuto di Dio sia solo una forza cinetica, mentre il suo aiuto è anche quello di darci uno spirito sereno e tranquillo mediante il quale noi possiamo dormire, riposare e riprenderci. Chi di noi non si è sentito aiutato da qualcuno solamente con la sua presenza? Egli non ha fatto nulla di effettivo, il lavoro lo abbiamo dovuto svolgere noi, ma la sua presenza ci ha infuso una sicurezza che valeva più di un aiuto pratico. È normale durante il giorno essere occupati nelle faccende della vita, è normale che la nostra esistenza sia una scuola, ma apprendere quando è notte, quando tutto tace, quando si è inattivi, è un'esperienza che non tutti fanno. Il salmista disse: Io benedirò l'Eterno che mi consiglia. Il mio cuore mi ammaestra anche di notte. Salmo 16, 7. Anche la notte, come il giorno, può essere un periodo fruttuoso nel quale si può ricevere istruzione. Quante volte si va a dormire con degli interrogativi per poi svegliarsi al mattino con idee più chiare e a volte addirittura con la soluzione del problema? Ricordo che ci fu un periodo che avevo un interrogativo biblico che non mi lasciava stare. Anche se, come sempre, il mio cuore realizzava costantemente la pace. Una notte, di soprassalto, mi sveglio con la risposta che stava in un'affermazione della parola di Dio. La lessi. Subito per accertarmene, ripresi a dormire. Evidentemente il mio cuore o la mia mente lavorava anche durante il sonno. E una simile esperienza non è solo mia, tanto è vero che ci è il detto. La notte porta consiglio. Tutto questo è forse un caso, è la notte che porta consiglio, o è l'Eterno che consiglia anche di notte? Se è l'Eterno che consiglia anche di notte, allora, come il salmista, benediciamo l'Eterno, cioè diamo a Lui il culto che gli è dovuto. È vero che il culto generalmente si esprime di giorno, ma chi realizza l'ammaestramento di Dio anche di notte si unirà al salmista, dicendo: Nel cuore della notte mi alzo per celebrarti. Salmo 119, 62. La notte. La notte È un periodo per molti trascurabile se non di poco conto, ma per chi ha compreso i piani di Dio, essa è una valida ragione per trovarsi davanti a Lui con un cuore riconoscente, atto solo ad esprimere lode e adorazione. Mentre di giorno, quando si desidera stare davanti a Dio, si è disturbati in mille modi e in mille maniere, di notte, nel più profondo silenzio, quando non vi sono tensioni pressanti, quando realizzi veramente che sei solo con il tuo Dio, allora soprattutto in quel momento sale dal più profondo del tuo essere quella riconoscenza che si aveva durante il giorno, ma che la quotidianità della vita non permetteva di esprimere. L'adorazione che sale dal tuo cuore durante la notte è la più genuina che ci sia, perché nessuno vede, nessuno sente, nessuno condivide. Abituati come siamo a partecipare tutto con altri, e soprattutto la nostra espressione di fede, l'adorazione notturna sembra vuota e insignificante, ma il valore di essa è data dal soggetto che si adora e non dal numero delle persone. La notte può diventare anche un periodo molto fruttuoso. Nella nostra mente la notte è sinonimo di dormire, riposarsi, e ciò è giusto, ma se si considera la notte solo sotto questo aspetto si perdono molte benedizioni. Il salmista testimonia: mi ricordo di te sul mio letto, penso a te nelle veglie della notte. Poiché tu sei stato il mio aiuto, io canto di gioia all'ombra delle tue ali. Salmo 63:6-7. Succede a tutti di avere notti insonni, o perlomeno notti nelle quali non riusciamo ad avere un sonno totale, per cui la nostra mente è ancora attiva. Per molti altri, la notte è il periodo più brutto, perché nella loro mente ritornano del continuo i problemi e le preoccupazioni della vita. Come un vortice, la mente è ingovernabile, macera, passa e ripassa ogni ansia, ogni tensione, ogni angoscia. Come comportarsi in queste situazioni? Se la soluzione fosse facile, non vi sarebbero milioni di persone che per dormire prendono psicofarmaci, non vi sarebbero tante persone depresse. Eppure il salmista ci dà un esempio per superare le notti insonni. Anzi, non solo ha testimoniato come superare l'insonnia, ma ha dato l'esempio per rendere fruttuosa una notte, pensare a Dio. Poiché è impossibile fermare i nostri pensieri, soprattutto quando siamo coinvolti nel profondo del nostro essere, la cosa più saggia è rivolgere i nostri pensieri altrove, a qualcuno che ogni giorno si occupa di noi, a chi è degno di essere pensato non solo di giorno ma anche di notte, cioè a Gesù Cristo. Non si tratta di compiere un gesto accorto o intelligente per poter dormire, neppure un atto religioso, ma è un gesto doveroso, rivolto a chi ha dato la sua vita per noi affinché potessimo accedere alla Deità. Il salmista pensa a Dio nel suo letto durante la notte perché Egli è stato il suo aiuto e per questo è pieno di gioia. Chi di noi ha mai avuto una notte insonne da tanta gioia che aveva? Ho letto una sola testimonianza di un figlio di Dio che passava delle notti insonni perché il suo cuore gridava dalla gioia. La notte dunque può essere propizia per meditare sulla persona di Gesù Cristo, per meditare sulle sue parole così come sono espresse nella parola di Dio, per meditare sul passato, come Dio abbia agito misericordiosamente, per meditare sul presente, come Dio non ci tratti secondo i nostri peccati, per meditare sul glorioso futuro che attende ogni figlio di Dio. Una simile notte non può che portare un beneficio sia fisico che spirituale. Molto probabilmente il valore della notte lo ha dato una volta per sempre il nostro Signore Gesù Cristo. Gli evangelisti hanno narrato le opere di Gesù, ciò che faceva di giorno, ma di tanto in tanto hanno dato qualche accenno a ciò che Gesù faceva di notte. Ecco cosa leggiamo nel Vangelo di Marco. Poi, fattosi sera dopo il tramonto del sole, gli portarono tutti i malati e gli indemoniati. E tutta la città era affollata davanti alla porta. Egli ne guarì molti, colpiti da varie malattie, e scacciò molti demoni, e non permetteva ai demoni di parlare, perché sapevano chi egli fosse. Poi il mattino seguente, essendo ancora molto buio, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo solitario, e là pregava. Marco 1:32-35. Senza ombra di dubbio Gesù era un uomo impegnato, anzi, impegnatissimo. I suoi discepoli, che lo seguivano, a volte non avevano neppure il tempo né di mangiare né di riposarsi. Egli era venuto sulla terra per servire, per predicare l'Evangelo, e questo lo assorbiva totalmente, al punto che appena poteva dormiva dove si trovava, come quella volta che si era addormentato sulla barca. Egli avrebbe potuto dichiarare verso i bisognosi che doveva dedicare del tempo alla preghiera e alla lettura della parola di Dio, ma mai una volta si sottrasse al compito di aiutare il prossimo per dedicarsi ai propri bisogni spirituali come la preghiera. Come avrebbe sopperito o conciliato Gesù i suoi bisogni e quello degli altri? Se si fosse ritirato per pregare, avrebbe mancato verso i bisognosi. Se si fosse dedicato interamente al servizio degli altri, non avrebbe potuto pregare. Così Gesù trovò la soluzione. Di giorno era completamente a disposizione degli altri, di notte si dedicava alla preghiera. Certo, chi volesse imitarlo molto probabilmente finirebbe ricoverato in qualche clinica, perché lavorare e non dormire di notte è contro natura. Ho conosciuto una ragazza che con orgoglio mi diceva di pregare tutta notte, ma me lo stava dicendo nel cortile di un istituto psichiatrico. Come comportarsi allora? Dobbiamo dare alla notte il suo valore. Dio ha istituito la notte perché noi potessimo riprendere le forze. E per questo essa deve essere usata con questo scopo. Ciò non significa che tutte le notti siano uguali con un riposo ristoratore. Ma quando succede, è possibile di notte pregare, meditare, lodare Dio. Da quanto ho capito, molti uomini di Dio soffrivano di insonnia, ma non ne facevano un dramma, perché essi indirizzavano la loro mente al loro Salvatore, dato che erano consci che non solo il giorno era un mezzo per glorificare Dio, ma anche la notte. Gennaio 2005, Ellero,